Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. L'obiettivo di queste ore è chiaramente contenere in aree geografiche limitate l'epidemia. Chiaramente seguiamo 24 ore al giorno l'evolversi della vicenda, c'è un coordinamento costante tra tutte le energie in campo, in modo particolare con le regioni interessate, con la protezione civile, con tutti i ministeri che hanno competenze in materia, e siamo convinti che il Servizio Sanitario Nazionale italiano sia all'altezza di questa sfida. Buongiorno a voi, apriamo con le dichiarazioni del ministro Speranza, ma arriviamo alla domanda di oggi: coronavirus, che sta succedendo? È la domanda che ci stiamo ponendo tutti da quando, nel giro di poco più di 24 ore, il nostro paese è primo in Europa per numero di contagi e di decessi. Oggi siamo in diretta sino alle ore 13, ho invitato in studio con me la professoressa Antonella Castagna, buongiorno. Buongiorno a voi. Docente di malattie infettive all'Università Vita Salute San Raffaele, professoressa Castagna, lei è a disposizione dei nostri ascoltatori che possono inviare i loro messaggi vocali, WhatsApp al 349-238-6666. Mi raccomando, voi siete a tutti gli effetti un ospite della trasmissione, quindi sentiremo diversi interventi, abbiamo anche avuto la disponibilità del viceministro Sileri, ma come se potete immaginare, per chi sta gestendo le emergenze l'agenda è in continuo aggiornamento. Interverrà con noi anche il professor Massimo Andreoni, che è direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. L'obiettivo è raccogliere tutte le informazioni necessarie, capire che cosa sta succedendo e soprattutto capire che cosa possiamo fare. Professoressa Castagna, perché tra Lombardia e Veneto i casi di contagiati dal coronavirus sono arrivati quasi tutti contemporaneamente? Stiamo cercando di capire. Le parole del ministro Speranza fanno vedere come l'Italia sia un paese che sta cercando di gestire responsabilmente questa situazione nuova che si sta creando. La prima ipotesi è che in qualche modo stiamo vedendo oggi la fase, la sintomaticità delle persone che sono arrivate dalla Cina e che hanno potuto trasmettere l'infezione ad altri negli ultimi giorni di gennaio, prima che venissero messe in atto poi tutte le misure che il nostro sistema paese ha messo appunto in atto. Quindi questa è l'ipotesi più semplice per spiegare un pochino questa recrudescenza di casi, che in parte è anche giustificata dal fatto che se noi abbiamo un caso e screeniamo i controlli abbiamo una possibilità maggiore di trovare altri casi positivi, quindi è il caso, quindi che poi quando innesca... uno cerca trova, lei esattamente, mi sta dicendo. Esattamente. Ma mi faccia capire bene, intanto aspetto i vostri messaggi 349-238-6666, sarete voi anche a condurre con le vostre domande, le vostre richieste questa ora di diretta. Professoressa Castagna, ma siamo di fronte a un piccolo focolaio? Intanto ci spiega questa parola che leggiamo sui giornali. Se noi ripercorriamo quello che è avvenuto in altri paesi europei, per esempio in Germania e in Francia, ci sono stati piccoli focolai epidemici. In Germania 16 casi, in Francia 12 casi nelle scorse settimane. Adesso definire piccolo il focolaio italiano non è possibile in questo momento, perché abbiamo già 27 casi, se non ricordo male il numero. Sicuramente è un focolaio che in qualche modo è anche interessa più regioni, quindi dobbiamo un pochino capire se si tratta di un cluster che riusciamo a contenere o se ha una dimensione più grande. Andiamo al caso del 38enne, è il caso indice, così l'ha chiamato, giusto? Il caso 1. Che è stato contagiato da un amico tornato dalla Cina. Ipoteticamente potrebbe essere lui il paziente zero, usiamo il condizionale perché sono in corso accertamenti. Comunque, era rientrato in Italia tra il 20 e il 21 gennaio, ma era stato sempre bene, tranne una sintomatologia lieve come quelle influenzine che tutti noi mettiamo in conto, certo, soprattutto in questo periodo dell'anno. I due sono andati a cena e dopo 16-18 giorni il 38enne lodigiano ha manifestato i primi sintomi. Allora, questa storia ci dà due indicazioni. L'incubazione può essere quindi più lunga dei 14 giorni sino ad ora considerati? Seconda riflessione, anche chi non ha sintomi può trasmettere il virus? Andiamo per ordine. Sono due domande importanti. Sulla prima direi che per le evidenze che abbiamo adesso possiamo considerare i 14 giorni come il periodo di incubazione a cui attenerci, anche perché a volte la data in cui insorge il sintomo è la data in cui il paziente si accorge di avere il sintomo, magari i sintomi lievi sono precedenti di qualche giorno e 16-18 giorni non sono molto lontani dai 14. Quindi io direi che il periodo è un periodo che almeno per le evidenze che abbiamo oggi è ancora ragionevolmente corretto. Sulla possibilità, e vengo alla seconda domanda, che possa esservi la trasmissione da una persona asintomatica, direi che i casi dell'ultimo periodo dimostrano che questo è possibile. Non sappiamo quanto questo meccanismo sia efficiente, perché ci aspettiamo che un paziente che ha una sintomatologia, ha tosse, quindi trasmetta il virus molto più efficacemente con quantità di virus maggiore di una persona che è asintomatica, che non tossisce, però ciò non esclude che vi è la possibilità, credo che in qualche modo possiamo dirlo, che una persona asintomatica possa trasmettere il virus. Torniamo naturalmente su questo tema, intanto le domande. Cercate di rispondere a questa domanda che molti intorno a me si fanno. Se la mortalità del coronavirus non è altissima e comunque non superiore a quella dell'influenza di ogni anno, perché tanta preoccupazione, ansia e mobilitazione? O non è vera la premessa o la realtà si sospetta ben diversa da come viene descritta? Per favore spiegatecelo. Ci scrive un ascoltatore: io ho promesso che avrei passato proprio le domande al 349-238-6666, siete a tutti gli effetti conduttori insieme a me di questa trasmissione che vuole rispondere ai dubbi e ricevere informazioni. Professoressa Castagna. Allora, è un'epidemia che è ancora in pieno corso, per cui fare bilanci, dare delle stime non è semplice. Non è semplice anche perché forse i dati che arrivano dalla Cina sono arrivati in qualche modo o in ritardo o parzialmente. Però dobbiamo attenerci a quelle che sono le casistiche, cioè abbiamo poco più di 2.000 decessi in Cina su 77.000 casi registrati, quindi questo è il dato di mortalità che possiamo riferire alle persone. Allora, ci è stata battuta un'agenzia, il primo ministro Conte scrive: siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza. Arrivano molti messaggi, tra poco ne leggeremo un'altra batteria via di messaggi, naturalmente in attesa di altri ospiti che si affiancheranno alla professoressa Castagna. 349-238-6666. Che cosa sta succedendo? Questa è la domanda a cui cerchiamo di rispondere, dando soprattutto, e questo è anche l'obiettivo della nostra trasmissione, delle indicazioni. Alcuni ascoltatori mi stanno scrivendo: non sarebbe utile avere una campagna, diffondere delle norme per prevenire questo contagio? Lo stiamo facendo anche noi, come sempre, come facciamo ogni giorno, aiutateci anche voi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme. Tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Siamo in diretta sino alle ore 13, una puntata dedicata al coronavirus. La domanda che stiamo facendo ai nostri esperti è: che cosa sta succedendo? 349-238-6666 se volete intervenire. Intanto un'altra agenzia, Ippolito, che è dello Spallanzani, scrive, dichiara: è un momento di preoccupazione per il paese, ci aspettavamo pochi casi ma c'è un messaggio di speranza, queste persone sono state gestite tempestivamente e stanno bene, non bisogna premere sull'allarmismo. In linea con noi c'è il professor Massimo Andreoni, che è direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Professor Andreoni, misure molto restrittive quelle del nostro paese, eppure siamo il paese con il maggior numero di casi e 2 decessi. questa preoccupazione, questa messa in quarantena di 10 comuni in Lombardia, misure restrittive probabilmente ulteriori saranno adottate, si sta un po' navigando a vista, generano molta preoccupazione. Ci sono davvero tantissimi messaggi, professor Andreoni, ne sintetizzo alcuni che dicono: ma ci avevate detto niente allarmismo, siamo tutto sotto controllo, sembra che qualcosa sia sfuggito di mano o c'è stata una falla, un buco in questa sorta di cintura per contenere l'epidemia, o forse il virus vi ha dato scacco matto. Professor Andreoni. Ma speriamo che non sia uno scacco matto innanzitutto, però voglio dire, è chiaro che diciamo effettivamente è accaduto quello che era auspicabile non dovesse accadere, cioè che poi ci siano dei casi che sono dei casi non di importazione, ma sono dei casi che si sono creati all'interno di persone italiane che vivono in Italia, che non sono andate all'estero, e quindi rende un pochino più complicato adesso il controllo dell'epidemia, perché certamente controllare una proliferazione di casi eventualmente che arrivano tutto dall'estero è più semplice che non doverle controllare dentro casa. Come dice però il professor Ippolito, effettivamente le misure che sono messe in atto, adesso non per rifare lo stesso errore del quale i radioascoltatori ci accusano, cioè di fare tranquillizzare inutilmente, però viene di dire che tutte le misure in atto sono quelle che si devono e si possono mettere in azione in questi casi. Quindi sono stati controllati tutte le persone, verranno controllate tutte le persone che sono state vicino a contatto con i soggetti infetti, in modo tale da poterli diagnosticare il prima possibile per evitare che trasmettano anche loro ulteriormente l'infezione. Questo è quello che si deve fare e quello che si sta facendo. Il concetto di quarantena è un concetto nel quale proprio noi mettiamo in qualche modo sotto sorveglianza diretta le persone non malate, non infette, ma che sono state semplicemente a contatto con gli infetti. Ma la domanda, e la giro alla professoressa Castagna, anche a lei professor Andreoni, e arriva dal WhatsApp: come è possibile sapere se si è entrati in contatto con le persone infette se non si sa chi sono, si incontrano tante persone? Il caso del 38enne emblematico è un 38enne giovane, sportivo, in piena salute. Ha avuto contatti numerosi e frequenti con tante persone, naturalmente si sta risalendo a tutti i contatti per fare le verifiche del caso, ma professoressa Castagna, se anche le persone asintomatiche possono trasmettere il virus, è normale che i nostri ascoltatori si pongano questa domanda, a cui quale risposta da infettivologi potete dare? Professoressa Castagna? Diciamo che dobbiamo usare un senso di responsabilità, nel senso che probabilmente vi sono persone che sono entrate in contatto con pazienti provenienti dalla Cina, con persone provenienti dalle aree dove c'era endemia, e su questa anamnesi forse è necessario ritornare a livello individuale, no? Di ogni persona, verificare se vi sono stati in qualche modo contatti o familiari o al di fuori della famiglia con persone provenienti da questi paesi. In questo caso forse vale la pena che ci rivolgiamo ai numeri di utilità pubblica, il 1500 del Ministero della Salute, il 112 della Regione Lombardia, per avere più informazioni. Poi chiaramente dobbiamo agire con quelle che sono le misure che possiamo utilizzare, quindi le indicazioni che ci hanno dato i pazienti con sintomi, quindi con febbre, mal di gola, tosse, dispnea, che hanno avuto contatti in qualche modo con il mondo della pandemia, quindi con persone provenienti dalla Cina, delle zone a rischio, devono contattare, questa è un'altra cosa importante, devono contattare i numeri di telefono che abbiamo indicato, in modo che sia il sistema sanitario che arriva da loro e non intasare o in qualche modo rendere ancora più difficile il lavoro dei pronti soccorsi, dei reparti di cure intensive che oggi sono già allarmati. Andiamo a sentire un messaggio vocale che è arrivato al 349 238 6666. Buongiorno, Sono stato lunedì scorso a mangiare proprio a Codogno, lontano dal bar incriminato. Sto chiamando il 1500, ma è impossibile parlarci. Che dovrei fare? Bravo, e allora ha chiamato il 349-238-6666. C'è la Nico in diretta sino alle 13 insieme al professor Andreoni e alla professoressa Castagna. Professor Andreoni, che cosa dovrebbe fare il nostro amico? Ma diciamo, voglio dire, di persone che saranno passate per Codogno ce ne sono tantissime si saranno fermate e ovviamente non per questo si sono infettate, perché nelle trasmissioni delle infezioni respiratorie bisogna avere un contatto molto stretto, molto diretto con la persona infetta. Le persone sono infette quando hanno comunque qualche sintomo, diciamo, ecco, quindi quando noi diciamo che anche gli asintomatici trasmettono la malattia, non è proprio vero, perché quello che abbiamo imparato è che magari un raffreddore e qualche linea di febbre sono già segni di malattia e sono sufficienti questi segni per far sì che la persona possa trasmettere la malattia. Quindi io direi che le persone devono avere coscienza di quello che hanno fatto, quindi laddove queste persone che hanno avuto comunque, come racconta il radioascoltatore, un possibile episodio per il quale potrebbero essere venuti a contatto, devono fare attenzione alla loro condizione di salute, e laddove iniziassero ad avere dei sintomi respiratori far presente al medico, al pronto soccorso, che erano passati a Codogno in quella data e hanno mangiato al ristorante e via dicendo. In questo momento questo è il consiglio. È il consiglio, professoressa? Sì, se posso aggiungere un suggerimento pratico, Regione Lombardia ha messo a disposizione il 112, sì, che è un altro numero di utilità pubblica dove forse il radioascoltatore può trovare informazioni e magari descrivere risposte in modo più dettagliato quello che lo preoccupa. Ma la contagiosità è aumentata? Sì, ho sempre sentito parlare di un numero, una contagiosità 2.2-2.6, raffrontata a quella del morbillo che è 7.8. Per tanto tempo ci avete detto, beh, non è così contagioso. Ma adesso tutti questi casi, così riassumo altre tre domande che sono arrivate al 349-238-6666. Professor Andreoni. No, io non penso che la contagiosità aumentata perché il virus si sia trasformato e diventato più contagioso, e che inevitabilmente quando la numerosità dei casi cresce, quel 2.6 cresce in modo esponenziale, diciamo. Ecco, quindi che in questo momento, essendoci stato un piccolo focolaio che in qualche modo è sfuggito, determini una certa numerosità di casi, questo è nella storia delle epidemie, quindi non andrei a ricercare fenomeni più complicati, diciamo. Ecco. Andiamo a sentire purtroppo un altro. Sì, scusi, l'ho interrotta. No, dicevo, purtroppo sono sfuggiti una serie di casi, o un caso è sfuggito inizialmente, e questo ha generato una serie di casi secondari, diciamo. Ecco, tutto qua. Andiamo a sentire un altro WhatsApp vocale. Andiamo. È semplice, se siamo diventati i primi in Europa, c'è qualcosa che non funziona nei controlli, è impossibile che siamo arrivati a questo punto, e sono sicuro che non si fermerà qui. Piuttosto pessimista il nostro radioascoltatore che ha lasciato un messaggio al 349-238-6666. C'è qualcosa che non funziona nei controlli, sono stati fatti in ritardo, qualcosa è sfuggito. Se durante il controllo la persona non ha sviluppato sintomi, passa, e questo può avere un effetto che in qualche modo va a inficiare i controlli. Che ne pensate? Se posso dire, le misure di controllo che ha messo in atto il nostro paese sono state forse tra le più rigorose. Però siamo qua. È possibile che qualcosa sia sfuggito e dovremo cercare di contenere questo focolaio, dovremo cercare di capire anche quale può essere stata l'origine, se è limitata a un caso indice o se vi sono più casi, ma non sarei così pessimista, anche perché la presenza di coronavirus nelle altre regioni europee è ancora comunque una presenza in valutazione. Professor Andreoni, arriveremo tra poco a dare delle indicazioni basic. come si trasmette il virus, devo usare le mascherine, come devo disinfettare gli oggetti che tocco, basta un detersivo, no, acqua e sapone o ci vuole qualche cosa di più. Ma professor Andreoni, alcuni ascoltatori, ne leggo uno: perché non mettere in quarantena tutta la Lombardia e il Veneto per togliersi il problema? Ci scrive Marco al 349-238-6666. Così si eviterebbe il problema. Professor Andreoni, lei pensa che le misure restrittive verranno allargate e servono, sono sufficienti quelle adottate sino ad ora? Si stanno adottando, come diceva giustamente la professoressa Cassagna, le misure che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede, in cui il perimetro della quarantena si modifica in funzione di quella che è l'evoluzione dei casi, quindi mettere in quarantena, se no qualcuno intorno a noi potrebbe dire perché non mettere in quarantena tutta l'Italia, no? Quindi voglio dire, È un atteggiamento che si deve modificare in funzione di quello che sono gli eventi che si stanno realizzando. Devo dire, la Cina in qualche modo progressivamente ha incrementato le proprie attività e i segnali, sempre in questi casi bisogna essere cauti quando si parla, i segnali sono quelli che loro stanno in qualche modo contenendo l'epidemia. Quindi io credo che applicando le stesse cose, adesso sono state messe in quarantena alcune piccole frazioni o piccoli paesi della Lombardia, si faranno le cose che si devono fare. Additare una regione in questo momento sarebbe assolutamente sbagliato, perché ovviamente in queste cose ci sono una serie di eventi in qualche modo imprevedibili, per cui magari domani parliamo della Puglia piuttosto che del Lazio, di qualsiasi altra regione. Volevo intervenire con una battuta alla professoressa Castagna prima di dare la linea per fare una pausa e ritorniamo subito dopo. Se posso aggiungere, c'è anche una task force che rende dinamica l'indicazione, quindi le nostre indicazioni, le indicazioni operative evolvono nel tempo. Il fatto di aver messo in isolamento, aver dato indicazioni in quarantena e aver dato indicazioni precise a 9 comuni intorno al singolo caso è stata una risposta, a mio avviso, pronta. Se passo dalla stazione di Milano Centrale devo adottare particolari precauzioni? Ci ha scritto un ascoltatore su WhatsApp. Professor Andreoni, se lei venisse a trovarmi qua a Milano, si barderebbe con mascherina, guanti? Se venisse qua in studio da me? Verrei a trovarla volentieri, non metterei nessuna. Lei è un buon gustaio. Ci fermiamo qua, professor Andreoni, a tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Siamo tornati insieme in studio con me la professoressa Castagna, infettivologa al San Raffaele di Milano, in linea il professor Andreoni, che è direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, pronti a rispondere alle vostre domande. Cerchiamo di capire di più che coronavirus, che cosa sta succedendo. Professore, abbiamo parlato di mascherine, leggo un'agenzia, Alberto Fontanesi, che è il presidente di Federfarma Veneto, ci scrive stamani: ho aperto la mia farmacia, le prime 5 persone che sono venute sono entrate solo per questo motivo. Chi è l'acquirente tipo? Si va dall'ansioso, che ha paura di contagio, al viaggiatore, che in partenza ritiene di essere più esposto a rischio. Non mancano anche persone che hanno un raffreddore o una tosse, che in effetti le acquistano per il motivo più indicato, ovvero evitare di contagiare qualche familiare. Di qui l'appello ai produttori di mascherine: dare la precedenza nell'approvvigionamento dopo gli ospedali e gli operatori sanitari al canale delle farmacie, in particolare quelle delle regioni interessate in questo momento della circolazione del virus. Riapriamo la parentesoni di questa mascherina. Io vedo a Milano, prendo la metropolitana, vado sui mezzi per strada, molte persone con la mascherina. Voi ci avete sempre spiegato che la mascherina, a parte gli operatori sanitari, e poi sull'operatore sanitario ho una cosa da chiedervi, non vengono utilizzate dalla persona che è malata. Mentre sempre più persone che non sono malate utilizzano la mascherina per non ammalarsi. Allora, ci spiegate come funzionano queste mascherine? Perché c'è la corsa, le farmacie non ce l'hanno più. Evidentemente la mascherina ci tranquillizza, è un po' come la copertina di Linus. Una battuta alla professoressa Castagni e un rinforzo o un parere in più dal professor Andreoni. Professoressa Castagni. Allora, la mascherina deve essere utilizzata dalla persona che ha sintomi perché protegge gli altri. Questo virus si trasmette attraverso le goccioline, i droplets, sì. Quindi con l'emissione di goccioline di saliva, l'escreato, la tosse, lo starnuto. La mascherina impedisce che le persone che sono alla distanza di un metro e mezzo possano in qualche modo respirare queste goccioline, okay, che contengono virus. Ma se protegge, professor Andreoni, se scherma la persona, no? Se evita il passaggio dalla persona che è infetta a quella che è sana, perché non funziona anche al contrario? Ed è questo il ragionamento che ci porta a dire: sai che ti dico, la mascherina me la metto pure io, professore. Ma dunque, le mascherine poi ce ne sono tanti tipi, quindi adesso la cosa è un po' tecnica e complicata, diciamo, no? Non impediscono l'inspirazione, quindi la mascherina deve permettere di andare comunque aria nei nostri polmoni, no? Mentre sono molto efficaci nella espirazione, cioè a bloccare tutto ciò che noi emettiamo con il respiro. Allora, questo discorso, un discorso di massima, già spiega un pochino e dà ragione a quello che diceva correttamente la professoressa Castagna, cioè che servono molto di più a proteggere noi quando vengono indossate dalle persone malate che non a proteggere noi quando le mettiamo per proteggerci dalle persone malate. Detto questo, poi è chiaro perché uno dice: ma allora perché l'operatore sanitario si deve mettere la mascherina? In realtà il problema è la vicinanza che noi abbiamo con le persone malate, cioè ovviamente gli operatori sanitari sono costretti ad avere un rapporto diretto per visitare il paziente che li espone maggiormente, in cui la mascherina protegge proprio in quella distanza minima, diciamo, che si realizza nella vita del paziente, che non è quella che noi abbiamo con le persone che stanno intorno a noi. A proposito a di operatori sanitari, contagiati di cui abbiamo parlato in apertura, 27 sino al momento, non riusciamo ad aggiornare tutti i dati, quindi operatori sanitari, se ne aggiungono due contagiati da coronavirus anche nel paese. Si tratta di due medici di Pieve Porto Marrone, un comune della Bassa vicino alla provincia di Lode, che sarebbero ricoverati al reparto di malattie infettive del San Matteo. Questo stanno battendo le agenzie, quindi vuol dire che anche gli operatori sanitari, nonostante le precauzioni, poi è gente, come si dice, che dovrebbe sapersi muovere, possono venire contagiati, e il rischio è alto. Il rischio è alto, le indicazioni per gli operatori sanitari, soprattutto adesso che abbiamo visto in queste due giornate questo incremento di casi, sono assolutamente chiare, cioè quelle di utilizzare le mascherine, i guanti, di lavarsi frequentemente le mani. Quindi queste indicazioni, che sono semplici ma ribadite ovunque, sono a maggior ragione, devono essere tenute in considerazione sempre da tutti gli operatori sanitari. Mario dalla provincia di Roma vuole sapere quanto tempo sopravvive il coronavirus fuori dall'ospite, e aggiungiamo anche la domanda di Elisabetta: per quanto sopravvive anche sulle superfici, professor Andreoni? Ma dunque, su questo bisogna far chiarezza, perché c'è un po' di confusione, cerco di dirlo in maniera semplice, cioè dimostrare che un virus cresce o è ancora vitale dopo alcuni giorni su una superficie non vuol dire che quel virus sia infettante, perché per essere infettivo il virus deve avere una determinata carica, cioè deve essere presente in modo vitale ma in una numerosità sufficiente. Allora, il virus per replicare ha bisogno di cellule viventi, quindi quando sta su una superficie, noi effettivamente, come è stato dimostrato per il coronavirus ma per tantissimi altri virus, possiamo ancora trovarlo vitale e presente, ma non più infettante. Quindi nel giro di poche ore, di non molte ore, le eventuali superfici perdono di infettività, e poi l'infettività è sempre toccare e mettersi le mani in bocca. Quindi nuovamente il semplice atto di lavarsi le mani e non mettere le mani in bocca o sugli occhi comunque rende tutto ciò irrealizzabile. domande sui viaggi. Un ascoltatore manda un messaggio dicendo: abbiamo organizzato una settimana bianca con i bambini in Alto Adige, mia moglie è terrorizzata, non vuole più partire. Professoressa Castagna, lei la farebbe partire? Certo. Perché un po' di vacanza aiuta. Aiuta, si cambia, sicuramente. Si cambia aria. Ma serve prendere vitamine? Serve utilizzare dei farmaci antivirali, professor Andreoni? Serve o si possono trovare dei test che privatamente ci possono diagnosticare eventualmente la presenza del virus? Batteria di domande. Certo, medicine no. Diciamo, non ci sono medicine che ci riescono a far prevenire dall'infezione, diciamo, no? Stanno studiando medicine che servono a curare l'infezione, ci sono qualche dato di qualche medicina che ha un parziale effetto, diciamo, ma non ci sono medicine che noi possiamo prendere che ci aiutano a prevenire l'infezione. Non ci sono test diagnostici a disposizione, diciamo, di qualsiasi utente che possa fare per vedere se ha o non ha il coronavirus. Quindi questi test vengono fatti all'interno degli ospedali e di sedi qualificate e solo loro hanno la possibilità di fare questi test, che devono essere fatti nei casi in cui ci sia una sufficiente provata ipotesi che si possa trattare di infezione. Parliamo di fasi, di età. Abbiamo pensato sin ad oggi, o almeno questa è arrivata a noi come indicazione dagli addetti ai lavori, che il virus fosse particolarmente rappresentasse un problema per gli anziani, persone fragili. Per un periodo abbiamo anche letto, no, i bambini sono assolutamente protetti. Adesso c'è il caso del 38enne, quindi un ragazzo, possiamo dire, ragazzo 38enne, giovane in piena salute, attivo, sportivo. Professoressa, sull'età possiamo dire qualche cosa? Colpisce alcuni soggetti piuttosto che altri? Certo, direi che i casi che sono stati ospedalizzati in Cina, perché poi noi abbiamo delle certezze sui casi che sono arrivati all'ospedalizzazione, no? Quindi sono pazienti che mediamente hanno un'età intorno ai 60 anni. Questo non vuol dire che non ci possa essere una possibilità per un paziente che ha 40 anni, 38, 30, certo, di infettarsi. Però sappiamo che la maggioranza delle ospedalizzazioni, quindi dei casi gravi, si sono verificati in pazienti maschi intorno ai 60 anni con precedenti comorbidità rispetto alle ospedalizzazioni, possiamo dire questo. Non è ancora presto per fare un bilancio dell'epidemia, se mai sarà possibile farlo, su tutte le persone che si sono infettate. Le buone notizie però arrivano dallo Spallanzani, abbiamo detto 2 decessi. Buone notizie però arrivano dallo Spallanzani. Queste notizie sono un po' rassicuranti, nel senso che la coppia di cinesi, di turisti cinesi, sta meglio. Anche questo giovane uomo, perché è un ricercatore di 29enne, al terzo test è risultato negativo. È vero che chi ha avuto l'influenza potrebbe essere in qualche modo protetto? E c'è un'altra domanda che dice invece: più esposto, quindi professor Andreoni, l'influenza, averla o non averla, può avere qualche relazione con il coronavirus? No, né in senso favorevole né in senso sfavorevole. Sì. Poi avere in contemporanea più malattie ovviamente non è mai un fatto utile, però direi che è anche un fatto abbastanza raro. Però aver avuto l'influenza non aiuta a essersi vaccinati per l'influenza. Ha fatto bene chi l'ha fatto, ma non aiuta in termini di malattia da coronavirus. Scusate, potete chiaramente definire quali sono precisamente i sintomi del coronavirus? Lo facciamo ancora una volta prima di fare una pausa, poi ritorniamo con le vostre domande. Professoressa, per bene, raffreddore? Febbre, tosse? Dispnea, che vuol dire difficoltà a respirare, ma anche mal di quando gola. Sto ferma oppure che mi sento cosa vuol dire le cose questa vanno dispnea? Prese con senso di responsabilità. Se una persona ha improvvisamente febbre, tosse e si rende conto che fatica a respirare, oppure che ha una un numero di atti respiratorio un pochino aumentato, sì, è importante che questa persona chiami i numeri di utilità, ecco, pubblica. Non andiamo al pronto soccorso, no. Possiamo dirlo bene chiaro, possiamo state dirlo a casa. Chiaro, anche perché uno degli, delle, diciamo, di tutto quello che viene che è stato messo oggi in atto è proprio di fare in modo che siano il sistema sanitario che arriva dalla persona. Ci fermiamo e ritorniamo tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Siamo tornati insieme, 349-238-6666. Abbiamo ancora qualche minuto, una decina di minuti, un po' scarsi, per rispondere alle vostre domande. I nostri esperti sono qui a disposizione. Professor Andreoni, alcuni messaggi dicono rassicurate troppo, state dicendo che non c'è allarme, altri dicono fate troppo allarmismo. Insomma, professore, Come la si dice, la si sbaglia, sembra. Io capisco che anche per voi medici questo sia un periodo in cui delicato, in cui le informazioni naturalmente devono basarsi un po' sui dati, sulla vostra esperienza. È un virus, è una variante del coronavirus che si sta studiando, studiate poco. Quindi, professore. Ma guardi, diciamo, le epidemie sono qualche cosa che la sanità pubblica conosce, ovviamente, ogni volta ci si confronta, possono avere delle peculiarità, ma quello che si deve fare nel corso delle epidemie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi tutti i diversi organismi delle sanità locali lo sanno perfettamente, quindi non c'è molto da inventarsi. Bisogna man mano modificare quelli che sono gli interventi in funzione di quello che si sta realizzando, quindi non è un non voler dire o rassicurare troppo, è un aggiornare in funzione di quelle che sono le situazioni, no? Qualche giorno fa non avremmo mai detto che bisognava mettere in quarantena una piccola cittadina della Lombardia, oggi è stata messa in quarantena, quindi senza né allarmismi eccessivi, ma neanche per sottovalutando il problema. Professoressa, sembra, no? Allora, viaggi, contatti ravvicinati, un ascoltatore mi scrive anche feste, party notturni, perché le persone si muovono, si incontrano. Qual è la distanza di sicurezza? Quali sono le attenzioni e le precauzioni? Poi vediamo alla detersione delle mani e degli oggetti. Professoressa. Allora, oggi non ci sono i criteri per pensare di oggi, mentre parliamo, per pensare di modificare le nostre abitudini di vita. Quindi è giusto avere un senso di responsabilità senza creare falsi allarmismi, e aggiungiamo anche dei dati positivi. Prima si parlava di epidemia. In Cina i casi di guarigione stanno superando i casi di infezione, quindi in qualche modo c'è un'evoluzione, speriamo, positiva dell'epidemia là nel paese dove è insorta per prima. Quindi le abitudini di vita, gli stili di vita vanno mantenuti, vanno mantenute le corrette norme di igiene, quindi se stiamo qua, le corrette norme di igiene, così c'è anche Marta Cagnola dall'altra parte del vetro, che ecco, intanto volevo, quando noi ci laviamo le mani dovremmo lavare, il tempo è 40-60 secondi, vuol dire quasi un minutino, noi invece solitamente usiamo il sabato e via, e tendiamo anche a non asciugarcele adeguatamente. Allora sembrano i suggerimenti della nonna o della zia Nico, ma sono importantissimi, molto importanti. Niente ma lavarsi le mani per un periodo appunto di 30-40 secondi in modo completo, quindi sia i palmi che le mani all'interno delle dita, quindi questo è importante per rimuovere meccanicamente col sapone, col detergente, quello che può essere sporco, che contiene batteri, microbi. Quindi questo è un primo elemento importante. Servono disinfettanti, salviettine, liquidi particolari. Professor Andreoni, vengo da lei, tormento un po' anche lei. Dunque, direi per ai fini delle mani un buon lavaggio energico delle mani è sufficiente, diciamo. Poi se uno vuole usare idrogel alcolici, la mucchina e quant'altro, però voglio dire un buon lavaggio delle mani è più che sufficiente a togliere di mezzo i virus che stanno sulle nostre mani. E poi, se posso aggiungere un'altra precauzione molto semplice, che diciamo sempre che dovremmo abituarci, è sternutire e tossire coprendo la bocca o il naso non con la mano ma con la piega del gomito, sì, o usando fazzolettini usa e getta, ecco, dico, queste due misure, lavaggio delle mani e saper sternutire e tossire, sono un qualche cosa che ridurrebbero sicuramente la trasmissione del virus in maniera molto efficace. E gettandoli poi, i fazzolettini usati. Assolutamente, usa e getta. Le persone che vengono a contatto con tante persone, mi scrive un ascoltatore, lavoro in un supermercato, c'è la mamma preoccupata per la figlia che lavora ad uno sportello in banca, che devono adottare delle misure ulteriori, professoressa Castagna? Al momento no, nel senso che, ripeto, dobbiamo attenerci a quelle che sono le indicazioni che ci vengono dati dal nostro sistema sanitario, dal nostro paese. Quindi oggi le abitudini di vita delle persone che non hanno particolari collegamenti con l'epidemia, quindi non sono state a contatto con persone provenienti dalla Cina, devono svolgere una vita normale. Non si è mai parlato di coronavirus sugli animali, ma ci sono dei casi, ci scrive un ascoltatore? Professor Andreoni, le risulta? Dunque, i coronavirus sono dei virus che infettano molte specie animali, quindi ci sono tantissimi coronavirus che appartengono a specie animali diverse, diciamo, ecco, anche molto lontane da noi, come i rettili e quant'altro, no? Che in qualche modo erano stati anche chiamati in causa. Diciamo, normalmente esiste questa peculiarità che ogni specie ha il proprio virus, quindi il virus del morbillo del delfino non infetta l'uomo, quello dell'uomo non infetta il morbillo. Allora, ho dei messaggi molto che arrivano nella vita di tutti i giorni. Bar che espongono i cornetti sul banco senza alcuna barriera. Si rischia, professoressa Castagna? No. Ho un appartamento Airbnb. Cosa rischio facendo le pulizie? Ci scrive Mauro. Professor Andreoni, rischia? Assolutamente nulla, va pulito come pulirebbe abitualmente il proprio Airbnb. Basta un'unica esposizione al virus per ammalarsi oppure serve che il soggetto sia particolarmente predisposto? Avete fino adesso parlato, abbiamo parlato un metro e mezzo, giusto, di distanza. Basta solamente un contatto, una cena, qualche cosa di più vicino, un fianco a fianco in metropolitana, in treno ad esempio, perché uno dice mantenete le distanze, in treno ci sediamo coscia a coscia, che cosa dobbiamo fare? Basta? O? L'informazione corretta è che se abbiamo una persona malata, quindi che ha sintomi, tosse, raffreddore, eccetera, tenere la distanza da questa persona di circa un metro può essere utile, ma questo vale nel rapporto tra una persona che non è infettata e un malato, mentre invece non possiamo pensare di mettere un metro di distanza tra ogni individuo italiano. Ebbene, evitare le strette di mano, professor Andreoni, con un sì o con un no chiudiamo la puntata, lei la risposta? Direi di no. Ecco, grazie a professor Andreoni, alla professoressa Castagna, Roberta Frisani in regia alla parte tecnica, ad Alessandro Schirano e Edoardo Lavezzari in redazione. Io vi do come sempre appuntamento a lunedì, ma se volete saperne di più ditelo all'Anico 349-238-6666, lasciatemi i vostri messaggi vocali, vi farò rispondere dai nostri esperti. Buona giornata.